Il nome. Era una mattina di una primavera gelida. Sole luminoso, neppure una nuvola, non c'era vento, ma faceva freddissimo. Da quel cielo azzurro, piombarono giù quattro lunghe fiamme d'argento. Puntando verso Maternité de la Croix-Rousse, Lione, in Francia. Entrarono nell'ospedale saettando velocemente. Due si fermarono di fronte alla vetrata da cui si possono osservare i neonati. Le altre due attraversarono corridoi e pareti per poi piantarsi come colonne maestose accanto al letto da parto per seguire gli ultimi momenti del travaglio di Isabelle. Isabelle era molto giovane, fortunatamente per lei non ebbe un parto difficile. Un bel maschietto, notificò Mumia. Bene, andiamo prima che facciano danni, concluse Abuya. Così le due luci immediatamente si proiettarono verso la camera dove era ricoverata Isabelle, aspettarono il suo arrivo, con loro fattezze originali ma rimanendo invisibili. Nella camera c'era Antoine e il marito di Isabelle, ansioso guardava la televisione distrattamente saltando da un canale all'altro. Quando vide entrare Isabelle ebbe una reazione esagerata, come avesse ricevuto una scossa elettrica. Come stai? Tutto bene? Sì, sto bene, è andato tutto bene, rispose Isabelle. Il bambino? Il bambino sta bene? Sì, tutto bene, intervenne l'infermiera, e lei che non sta bene, le porto un ansiolitico? Mumia e Abuya si guardarono dubbiose, si avvicinarono a Antoine. Dobbiamo ancora decidere il nome, disse Antoine, Armand? François? Louise, disse Isabelle. Mumia e Abuya si scambiarono un'occhiata seria. André, scandì Abuya con tono minaccioso all'orecchio di Antoine. René, disse Antoine. Non ti azzardare, esclamò nervosa Mumia dando un pesante ceffone sulla nuca di Antoine. Cosa c'è? Chiese Isabelle notando una strana smorfia sul volto del marito. Non so, una strana fitta tra capo e collo, mi fa malissimo. Mumia alzò gli occhi al cielo, sbuffando cambiò canale del televisore. Lasciandolo sul cartone animato Lady Oscar. Nel corso di un dialogo tra la protagonista e il suo attendente André Grandier. André, ripeté Abuya. André. Lo chiameremo André, sorrise Isabelle indicando il televisore. Come un cartone animato. Chiese Antoine per niente convinto. Parto con un altro ceffone? Brontolò Mumia. Ma sì, è un bel nome, concluse Antoine sorridente. Gabrielle e Lavia erano in piedi di fronte alla vetrata. Guardavano André appena arrivato dalla sala parto. Lavia era molto affezionata a Gabrielle ed aveva l'abitudine di accostarsi a lui abbracciandogli un braccio appoggiando la testa sulla sua spalla, anche in quel momento era così. Siete parenti del bambino? Chiese una signora abbastanza anziana. No, rispose Gabrielle. Lo guardate con così tanta tenerezza, pensavo che lei fosse il padre. No, rispose ancora Gabrielle con un sorriso. Ma ci siamo presi cura di lui fino a poco prima che nascesse, intervenne Lavia. La madre è davvero fortunata ad avere un ginecologo e un'ostetrica così presenti, sospirò la signora. A quelle parole Gabrielle e Lavia si scambiarono uno sguardo divertito. Mia figlia all'ultimo momento si è ritrovata con il ginecologo in ferie e l'ostetrica in malattia, per fortuna non ci sono stati imprevisti. Eccola la mia nipotina. Gabrielle e Lavia riconobbero i passi veloci di Mumia e Abuya che si stavano avvicinando, si voltarono appoggiando la schiena sul vetro e le videro abbigliate con tanto di camici. Abuya aveva anche lo stetoscopio che sbucava dal taschino. Tutto fatto, disse. Possiamo andare, concluse Gabrielle.